Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi voglio parlarvi di un visionario, un regista cinematografico tra i miei preferiti, amante del grottesco, capace di essere poetico, sguaiato, surreale, da Fellini fino alla follia. Voglio parlarvi però anche di un grande musicista, di una persona al centro della cultura, soprattutto in una parte dell'Europa molto tormentata. Insomma, voglio parlarvi di Emil Kusturiz, più di una volta vincitore al Festival di Cannes, artista acclamato non solo lì in Francia ma anche nel nostro paese, fino addirittura agli Stati Uniti, dove ha perfino insegnato alla Columbia University. Nonostante sia considerato uno dei migliori registi contemporanei che la vecchia Europa abbia sfornato, Kusturiz è stato anche al centro di molte polemiche per via del suo comportamento considerato controverso negli anni del terribile conflitto tra i serbi e i bosniaci durante la prima metà degli anni 90, gli anni in cui si è consumato l'assedio di Sarajevo, negli anni della pulizia etnica perpetrata dalle armate serbe appoggiate dall'esercito dell'ex Repubblica Jugoslava. Da quegli anni, per molto tempo ancora a seguire, non c'è stata intervista al regista che non si concludesse con qualche domanda che gli chiedesse conto della sua posizione politica. È una posizione difficile per Kusturiz, perché lui è il primo prodotto di un paese crocevia di molte etnie e religioni, che è riuscito a esistere nella tolleranza in vari momenti storici. Sarajevo, ricordiamocelo, è stata una sfida per l'Europa, per la sua proposta di convivenza, di tolleranza. Ed è proprio a Sarajevo che nasce Emir Kusturiz, 1954, famiglia musulmana, come il 45% della popolazione della città, anche se è stata, come dire, secolarizzata, cioè sono diventati dei moderati. Il padre Murat è un giornalista che lavora per il Ministero dell'Informazione, che ha rinunciato alla religione per amore del comunismo. È una persona ben introdotta, con buone amicizie anche tra gli artisti della città, tra i quali un regista abbastanza conosciuto, Siba Krvavak, al quale si rivolge per chiedergli un aiuto per il figlio. Emir dà dei dispiaceri ai genitori, è interessato a frequentare cattive compagnie, è specializzato in film sui partigiani. Krvavak dà una particina a Emir Kusturiz nel suo film Walter difende Sarajevo, per la cronaca uno dei film più visti nella Repubblica Popolare Cinese negli anni 70, ma questa non è l'unica esperienza di Emir con il cinema. Durante i weekend lavoravo per farmi un po' di soldi. Il lavoro consisteva nel portare il carbone per il riscaldamento alla cineteca, dove si programmavano vecchi film. Spesso, quando la consegna era finita, il direttore ci faceva entrare gratis. Uno dei primi film che ho visto in questo modo è stato Senso di Visconti. Non ci capivo niente, ma mi rendevo conto che sullo schermo stava succedendo qualcosa di importante, di diverso dal solito. Poco tempo dopo, un altro film mi ha sconvolto: La strada di Fellini. Lì ho fatto il mio ingresso magico nel mondo del cinema. E dopo il liceo la famiglia manda il figlio a Praga, la passione per il cinema è forte e lui va alla scuola di cinema FAMU, frequentata da personaggi come Miloš Forman, il regista di Qualcuno volò sul nido del cuculo e di Amadeus. In realtà, più che per farne un gran regista, i genitori di Emir sperano di allontanarlo definitivamente dalle cattive frequentazioni. A quel tempo ero come una terra vergine. Ero molto curioso, ma non mi piaceva la scuola e non avevo avuto dei veri collegamenti con il cinema. Da questo punto di vista, la mia carriera nel cinema è una coincidenza. La mia fortuna è stata quando Ajrudin Krvavac, un amico di mio padre, stava dirigendo un film patriottico e mi ha portato sul set. In quel momento sono stato completamente sedotto dalla grande quantità di conoscenze e di esperienze che possiamo imparare dal cinema. Quando sono tornato a Sarajevo dopo aver fatto la scuola di cinema, ho capito quanto il mio paese, i miei ricordi d'infanzia, le mie esperienze personali fossero abbastanza ricchi per poter creare storie. Era la prima volta che realizzai veramente quello che era il cinema. E così dopo il diploma a Praga nel 78 Kusturica firma il suo vero primo film intitolato Ti ricordi di Dolly Belle, la storia di formazione scritta da lui stesso, ambientata negli anni 60 con il giovane protagonista che ama l'ipnosi, che ascolta sempre 24.000 baci di Adriano Celentano e guarda i film di Alessandro Blasetti. L'ipnosi non si impara per scopare, l'ipnosi deve cambiare il mondo intero. Tu pensi soltanto a quelle tue stronzate di merda sull'ipnosi. Carta bianca, punto nero e tu lì come un coglione. Tu dormi. Ma il comunismo è una condizione umana. 4.000 baci, oggi saprai perché l'amore. Vorrei mi state 1.000 baci, 1.000 carezze voi allora. Quando gira il film, Kusturica ha solo 27 anni, eppure vince a Venezia il Leone d'Oro per la miglior opera prima. È il miglior lascia passare per il mercato internazionale. Molti parlano di lui, il suo film viene invitato ai festival in giro per l'Europa. Peraltro questo primo successo gli vale un posto come insegnante all'Accademia di Arti Visive di Sarajevo, un'età di poco maggiore di quella della maggior parte dei suoi studenti. Comunque lui continua a lavorare nell'85, scrive e dirige il suo secondo film, Papà è in viaggio d'affari. È una pellicola ambientata in un passato prossimo, siamo negli anni 50, e questo permette a Kusturica di raccontare un mondo politico come quello terribile della Jugoslavia degli anni di Tito, il tempo del comunismo che era una fede da seguire senza se, senza ma. Finisce anche in prigione per la sua voglia di parlare di libertà, ma lui racconta anche l'universo folle e allegro dei Balcani, e questa diventa un po' la sua cifra stilistica. Insomma, il risultato è un film che vince la Palma d'Oro a Cannes e si guadagna anche una nomination agli Oscar come miglior film straniero. Capo, il compagno Zeke ci vuole subito. Chi gli ha scritto il discorso? Lo chiedi a me chi gliel'ha scritto. E tu? Non hai corretto qualcosa? Per chi mi prendi, compagno Zekic, per un matto? La ragazza ha detto con il partito è Tito e tuo figlio con Tito è il partito. Ma non è la stessa cosa. Se lo avessi scritto, corretto tu, in quale ordine li avresti messi? Per me, compagno Zekic, è la stessa cosa. Il partito ce l'ha insegnato. Tito è il partito e il partito è Tito e Tito siamo tutti noi. Bene, Mesha, ben detto. Il Falco e il Gabbiano torna tra poco, qui, su Radio 24. Axerta. Indaga. Documenta. Accerta. www.axerta.it. Vi presenta... Il Falco. E il Gabbiano. E dopo la vittoria del film Papà in viaggio d'affari al Festival del Cinema di Cannes, Emil Kusturica decide di appendere per un po' la cinepresa al chiodo e sta aspettando di trovare un soggetto interessante da affrontare, e intanto però si dedica a un'altra sua grande passione, la musica. Si unisce a una band post-punk folk in No Smoking e suona anche il basso con loro, va in tournée, filma le tournée, tra i loro dischi anche uno dal titolo fantastico che è Unza Unza Time. Per Kusturica la musica non è solo un modo per riempire il tempo libero, è una parte importante dei suoi film. Sono convinto che la musica e il cinema abbiano la stessa struttura. Usiamo differenti modelli e incroci musicali per creare un'atmosfera dionisiaca al fine di portare la gente alla catarsi, il che fin dai tempi antichi è stato un buon modo per comunicare con il pubblico. Ed è di quel periodo anche la nascita di una collaborazione con l'altro vate della musica slava di quel periodo e anche di oggi, il compositore Goran Bregovic. Il loro primo lavoro insieme è Il tempo dei gitani dell'88. L'ispirazione viene a Kusturica leggendo un articolo sul commercio di neonati rom in Italia. Quando inizia a documentarsi scopre che a Skopje in Macedonia esiste una comunità di 50.000 zingari e quindi si trasferisce per 2 mesi sul posto per conoscere le loro storie. Ne nasce un film con tutti attori improvvisati e anche con un copione che va nascendo giorno per giorno tra suggestioni e anarchia lavorativa. Alla fine il girato è talmente lungo rispetto alla durata del film che ne verrà tratta anche una miniserie curata dalla televisione jugoslava con il beneplacito di Kusturica. Anche questo film vince il premio alla miglior regia nel 1989 a Cannes. La regia del tempo dei Gitani mostra il lato onirico, poetico, felliniano della regia di Kusturica. Lo si vede bene in una delle scene più belle, quella dei festeggiamenti lungo il fiume. Proprio questa sua capacità che contraddistingue rende unico il suo lavoro in modo lontano anni luce dal cinema hollywoodiano. Non sopporto il naturalismo dei film di Hollywood, dove il personaggio esce dalla macchina, apre la porta, sale sull'ascensore, esce dall'ascensore, attraversa i corridoi, apre la porta e poi chiude la porta. Trasporta grossi sacchetti del supermercato e poi li butta nel frigo. Poi dal frigo tirano fuori un gelato. Squilla il telefono, allora lui si preoccupa, risponde al telefono appoggiandolo sulla spalla. Amo i film di Fellini perché non ci sono protagonisti che si appoggiano telefoni sulla spalla. Concluse le riprese, Kusturica viene chiamato a New York dal regista Milos Forman, che gli chiede di sostituirlo alla Columbia University, e quindi il montaggio di Il tempo dei Gitani viene terminato negli Stati Uniti. Alla Columbia uno dei suoi studenti, degli studenti di Forman, propone un soggetto che piace a Kusturica e che decide di realizzare. È il suo primo film americano, si chiama Arizona Dream, ma in italiano non si sa bene perché viene tradotto in Valzer del pesce freccia. Il protagonista è Johnny Depp, con al suo fianco Jerry Lewis e Faye Dunaway. Il film è un fallimento commerciale, ma contiene delle scene pregevoli che hanno il marchio di fabbrica di Kusturica, come quando Depp e Lewis, vestiti da esquimesi, parlano in finta lingua Inuit. Però Kusturica, diciamocelo francamente, non è uno che può amare l'America al punto da stabilirsi lì. È troppo intelligente, sognatore, stralunato. L'America non è il suo posto, va a Parigi. Nel frattempo il suo paese non esiste più, la Jugoslavia unita e tenuta in piedi da Tito col rosso pugno di ferro si sta dissolvendo nell'odio, e quando le diverse regioni e etnie si distaccano e lasciano dietro di sé una terribile scia di sangue. Il falco e il gabbiano. Oggi la nostra puntata è dedicata a Emir Kusturica, un regista, anni fa avremmo detto un regista jugoslavo, in realtà la Jugoslavia, come sappiamo, non esiste più. È diventato famosissimo con dei film come Papà in viaggio d'affari, come Underground, che hanno introdotto una nuova estetica nel cinema contemporaneo, un modo di fare dei film sicuramente poco hollywoodiano, e questo già ci piace. È più legato al genere di lirismo, di poeticità grotteschi, quelli che hanno reso Fellini un maestro imitato un po' da tutti, e anche Kusturica infatti ha dichiarato sempre un debito di riconoscenza nei confronti del regista italiano, di Fellini. Ma lui è anche un regista che ha sollevato molte critiche, perché in tempi agitati, terribili, come quelli delle guerre tra la Bosnia, la Serbia, quando la Jugoslavia si stava sfaldando, non ha mai fatto delle dichiarazioni di condanna delle atrocità che obiettivamente ha commesso l'esercito serbo più degli altri. Forse proprio perché lui incarna in se stesso il conflitto tra i due stati, tra le due culture principali del paese, quella musulmana dei bosgnacchi e quella cristiano-ortodossa dei serbi. Al mondo non ci sono molti altri posti dove le culture dell'est e dell'ovest dell'Europa influenzano la vita delle persone, come accade in Serbia e in Bosnia. Abbiamo una tradizione autentica che si è sviluppata nel corso dei secoli, ma al tempo stesso è impossibile definire la nostra cultura. Ma è proprio questa combinazione che rende potenti i miei film, che li rende più vivaci. Il nostro campo di esplorazione è sempre aperto e ci porta a esprimere possibilità molto diverse fra loro, il che rende la nostra arte più dinamica. È un po' come se i fratelli Marx recitassero Shakespeare. Kusturica è una storia strana di partenza, perché nasce a Sarajevo, la capitale della Bosnia, da una famiglia musulmana, che se non musulmana praticante. Poi l'adesione ai valori comunisti del padre Murat porta questa famiglia, diciamo, verso l'ateismo totale, ma al tempo stesso lui prende le distanze dal suo paese natale, va a cercare le sue radici tra i serbi, e tanto che si fa battezzare come ortodosso nel 2005. Insomma, il problema è che quando questo distacco comincia a avvenire, la città di Sarajevo, lo sapete, finisce sotto uno dei peggiori assedi del mondo contemporaneo, subisce delle vessazioni, delle atrocità che io ho potuto verificare coi miei occhi, perché a Sarajevo ci sono stato più di una volta. E cerchiamo di capire come si è arrivati a tutto questo. Dopo la morte del maresciallo Tito nell'80 nella Jugoslavia, che in realtà è una nazione direi fittizia perché è nata dalle macerie dell'impero austro-ungarico che si era dissolto ai primi del Novecento, e poi c'erano state le spinte indipendentistiche e poi le repubbliche prima accomunate dall'anticomunismo, e insomma Sarajevo che diventa una scommessa per l'Europa, è lì che parte la prima guerra mondiale, poi le repubbliche che alla fine del comunismo cominciano a chiedere autonomie e partono prima quel con maggior potere economico come la Slovenia, la Croazia, poi arriva il Kosovo che però è abitato da una maggioranza albanese che chiede l'indipendenza. Cioè il problema è che lì in ogni zona c'è una maggioranza di un ceppo etnico e una minoranza di un altro ceppo. Nel 90 vengono indette delle elezioni in ognuna delle sei repubbliche che componevano la Jugoslavia costruita dal maresciallo Tito, e nella maggior parte delle repubbliche vengono eletti dei capi assolutamente indipendentisti. E quindi la Bosnia, che fino allora era uno stato famoso per la sua multietnicità e per la sua tolleranza, a Sarajevo tu trovi delle piazzette piccolissime dove c'è una moschea, una chiesa cattolica, una sinagoga. Era possibile questa sfida. Comunque a Sarajevo ci sono il 44% di musulmani, poi ci sono i serbi ortodossi al 32%, poi i cristiani croati al 17%, ma poi ci sono gli ebrei, ci sono gli atei, insomma. Lì viene eletto Izbegovic, che è un nazionalista che auspica e appoggia l'allontanamento del paese dalla patria centrale. Il capo della Serbia è il rinomato Slobodan Milošević, che è contrario a qualsiasi disgregazione, è disponibile forse a un accordo con la Croazia, ma certo la Bosnia lui se la vuole spartire a scapito della comunità musulmana. Intanto la Bosnia si autoproclama Repubblica Indipendente nel marzo del 92 con l'opposizione della comunità serba, è tutta una polveriera. Però io per esempio nel 93 sono andato all'Eurofestival a cantare e c'erano i cantanti della Bosnia Erzegovina, dei ragazzi che di lì a poco si sarebbero trovati al centro dell'inferno, il conflitto tra i musulmani e serbi, conflitto che durerà fino al 95, segnato da pulizie etniche, massacro di decine di migliaia di civili. Noi con la Nazionale Cantanti siamo andati a sminare dei piccoli camminamenti che consentivano ai bambini di andare a scuola, perché i serbi avevano minato tutto quello che circondava le scuole, avevano minato i giocattoli, avevano lasciato le macchinine a pedali affinché i bambini ci saltassero sopra. Insomma, il clima era questo, l'atroce assedio di Sarajevo. Kusturica in quel periodo vive a Parigi e ha una condizione, se non di diniego, di poca condanna nei confronti di Milošević e dell'aggressione serba. Prende le distanze, l'imbarazzo da parte sua è molto forte. Non ci potevo credere. Ero una di quelle persone che non credeva che tutto questo potesse accadere, che stesse accadendo. In realtà non volevo crederci. Kusturica a quella tragedia risponde alla sua maniera con un film che presenta nel 95 a Cannes e vince ancora una volta la Palma d'Oro. Il film si chiama Underground, è un film che scatena molte critiche perché la storia è ambientata alla fine della Seconda Guerra Mondiale, è un film meraviglioso se lo vedi, come dire, avulso da qualsiasi polemica. Però all'interno di questo film alcuni leggono una connotazione filoserba piuttosto marcata, i personaggi principali, spesso quelli buoni, sono serbi e quelli negativi sono croati e bosniaci, ma anche perché in qualche modo, secondo, lo dice anche un filosofo che si chiama Slavoj Zizek, Kusturica spiega, assolve il comportamento aggressivo dei serbi come il prodotto di una follia collettiva innata e selvaggia propria del popolo, per il quale la guerra fa parte della natura, quindi tutti con le mani sporche, tutti colpevoli, nessun colpevole. Ma però diciamo che la pulizia etnica perpetrata dai serbi ha molto di scientifico e si basa forse su un senso di supremazia politico-religiosa. La ciliegina sulla torta poi è che il film viene finanziato dalla radio-televisione serba, che a quel tempo sostanzialmente è gestita dal governo di Slobodan Milošević. Insomma, fatti i conti, molti sollevano grandi perplessità. Con Underground ho cercato di chiarire la storia della Jugoslavia fuori da ogni propaganda e dal bolscevismo per darne un'immagine epica, lontana dalla paranoia dei poliziotti di tipo orwelliano. Purtroppo ho avuto l'effetto contrario. Hanno accusato me di propaganda. Sono stato attaccato esattamente per ciò contro cui combattevo nel mio paese, ossia la totale, definitiva follia che esiste oggi nell'ex Jugoslavia. Ho vissuto un periodo davvero difficile. Così ho deciso di non fare più film, ma non ci sono riuscito. E così, in qualche modo, il Sarajevo si sente tradita da Kusturica a favore della Serbia. Bisogna dire che Kusturica ha comunque avversato dei movimenti serbi ultranazionalisti, è arrivato a sfidare a duello il leader di un gruppo paramilitare, che però rifiutò la sfida sostenendo che non voleva essere responsabile della morte di un artista. Forse una delle ragioni dell'allontanamento di Kusturica da Sarajevo è dovuto alla morte all'inizio dell'assedio del padre Murat. Muore per infarto poco dopo che l'appartamento di famiglia viene saccheggiato. Qualunque sia il posto dove scoppia una guerra, io ho un solo desiderio, quello di scappare. E me ne infischio del paese che pretende che io muoia per lui. E dopo la delusione per le critiche al film Underground, che però è sicuramente una delle sue opere migliori, non ci piove, Kusturica non vuol più tornare dietro alla macchina da presa, poi però cambia idea, il richiamo è troppo forte. Nel 98 ha un altro riconoscimento importante, il film Gatto Nero Gatto Bianco vince il premio speciale per la regia, il Leone d'Argento a Venezia. Insomma, l'Europa non sa più fare a meno di questo regista fuori dagli schemi, chiassoso, politicamente scorretto, visionario, pieno di energia. Eh sì, la sua energia non si discute, in ogni impresa la quantità di impegno è debordante, come lo è lui. Per esempio, uno dei suoi ultimi film, La vita è un miracolo, e lui in questo film ha costruito una cittadina di sana pianta, Drvengrad, chiamata anche in tedesco Kustendorf, la città del legno. Alla fine delle riprese, invece di distruggere le costruzioni, Kusturica non solo decide di mantenerle in piedi, ma addirittura ci va a abitare, e la sua idea è quella di realizzare un tipico villaggio jugoslavo dove sia possibile superare le differenze tra le varie popolazioni, di renderlo un centro dove poter imparare le arti, dal cinema alla pittura, di istituire anche un piccolo festival del cinema jugoslavo. A proposito di festival, nel 2005 Kusturica diventa il presidente della giuria del Festival di Cannes, che è un grande riconoscimento per il regista che nel frattempo è diventato serbo a tutti gli effetti. Mio padre era ateo, ma si è sempre descritto come serbo. Ok, forse siamo stati musulmani per 250 anni, ma prima siamo stati ortodossi e in fondo siamo sempre stati serbi. La religione non può cambiare questo dato di fatto. In realtà lui, con una moglie che è a sua volta è figlia di un serbo bosniaco, di una slovena croata, si trova con una famiglia composta da due figli sloveni croati, bosniaci, musulmani, serbi, insomma è la espressione massima del grande calderone etnico degli jugoslavi. Insomma, il senso della vita e del lavoro di Kusturica è quello di riuscire a superare i particolarismi delle varie etnie della ex Jugoslavia per riuscire in maniera incruenta a fare ciò che Tito fece con l'uso delle armi, della coercizione e della sua terribile dittatura. E certo, la figura di Kusturica si trova perfettamente a suo agio nell'eccesso. In ogni suoi film i sentimenti e le emozioni sembrano più importanti per lui se vengono sottolineati da un'orchestra rumorosa, un po' cialtrona, l'orchestra di Ottoni, da situazioni grottesche, da matrimoni e funerali, come dice Bregovic. Dalla sua anche il merito di aver saputo parlare come nessun altro di figure ai margini, gli zingari soprattutto. Gli zingari, non pensate ai rom che sono qua, pensate a un popolo di cultura, è un'altra cosa. Ma lui parla anche dei perdenti, degli storpi, dei dissidenti, dei fuorilegge, degli orfani, per cercare di creare un linguaggio cinematografico originale, autentico, in contrapposizione con quello hollywoodiano, che a suo modo di vedere, e anche a mio modo di vedere, se vi interessa, troppo standardizzato. Quello che abbiamo ora è una Hollywood che è veleno puro. Hollywood ha avuto un posto centrale nella storia dell'arte del XX secolo. Ha saputo preservare l'idealismo umano. E poi, come altri grandi luoghi di culto, è sprofondata. Si è trasformata in uno dei macchinari più terribili al mondo. Perché non vedo un Frank Capra oggi? Perché oggi non c'è più nessuno così? Possibile che le persone siano così cambiate in 60 anni? E forse la cosa più importante della poetica di questo visionario è quella capacità che ha di concentrarsi sull'essere umano, con tutte le sue debolezze, con la sua follia, con il suo istinto di sopravvivenza anche all'interno dell'odio e delle guerre, una resistenza che ha come unico scopo la salvaguardia della vita stessa nel bene e nel male. Ci sono storie di persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala. Nel caso di Kusturica, il suo colpo d'ala è stato un modo di portare la sua poesia in un cinema dell'assurdo, che è diventato una cifra stilistica molto importante. Ognuno di noi nella vita può darlo quel colpo d'ala e può volare in alto. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina, venite nei nostri social, Facebook, Twitter, nei miei social, e insomma, lo sapete, se volete mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Filiasi. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.